A Roma, a Piazza Santi Apostoli, c'è una piazza davvero coloratissima. I comitati delle altre province, i comitati per l'acqua, sono arrivati muniti di striscioni, palloncini e quant'altro, e sono allestiti più di 10 gazebo con le informazioni di tutte le vertenze territoriali sull'acqua e non. A breve inizierà uno spettacolo per bambini, siamo in attesa dell'arrivo di Primavera Romana e delle ciclo officine che hanno organizzato per stamattina una passeggiata a piedi in bicicletta sì. Sì, a piedi in bici per collegare i luoghi dell'acqua di Roma, e che arriveranno presto qui a Piazza Santi Apostoli. Li aspettiamo per iniziare la giornata di festa e di protesta insieme. Certo. Senti, e ora oltre l'aspetto ludico della giornata, che è pure importante per far partecipare tutta la popolazione, ecco, però c'è un aspetto, ne parlavamo poco fa anche con altri compagni, e c'è un problema, nel senso che il periodo in cui è stato fissato per legge il referendum potrebbe interferire con le elezioni anticipate. Ecco, in quel caso, se ci fossero le elezioni anticipate a marzo, slitterebbe il referendum. Rispetto a questo, cosa pensate di muovervi? Sì, la giornata di oggi è incentrata come contenuti sulla richiesta di moratoria e certo. Sul diritto al voto referendario entro il 2011. La richiesta di moratoria perché riteniamo assolutamente indispensabile rispettare la volontà di tutti i cittadini che hanno firmato e che vogliono andare a votare questo referendum, e rispettarla senza cambiare la situazione attuale. Questo vuol dire che i processi di privatizzazione si devono bloccare fino a che fino a che i cittadini non si saranno espressi in merito. Quindi chiediamo una moratoria sulle scadenze del decreto Ronchi, una sospensione delle scadenze, e nel caso in cui si vada a elezioni anticipate, chiediamo che venga promulgata una deroga sulla legge referendaria che ci permetta di andare a votare in autunno del 2011. Questo è possibile, è successo già diverse volte, in particolare poco fa è stata celebrata l'anniversario del referendum sul nucleare, che appunto si votò a novembre in deroga alla legge sul referendum. Quindi è una questione di volontà politica, ancor prima che a favore dell'acqua pubblica, in difesa della democrazia, rispettare la volontà di tanti cittadini che si sono mobilitati. Queste sono le richieste che faremo, e oggi in tutta Italia ci sono mobilitazioni proprio per dar forza a queste richieste. Perfetto. Senti, la giornata, sappiamo che qui a Roma appunto proseguirà fino alle 18 di questa sera, quindi fino al tramonto, con spettacoli, iniziative, ci saranno anche musica con Radici nel Cemento e l'esibizione di Ulderico Pesce, che farà questo suo spettacolo. Quindi se ci vuoi raccontare, ecco, come si svilupperà fino a stasera. Sì, iniziamo questa mattina con attività più per i bambini, ci sarà uno spettacolo proprio per i bambini che già stanno affollando la piazza, e poi ci sarà un pranzo sociale organizzato dai volontari del coordinamento regionale, e dopo pranzo inizieranno sia gli interventi politici delle vertenze che sono intervenute, e si susseguiranno degli spettacoli teatrali. Ci sarà un reading a cura di Controchiave, e ci sarà appunto lo spettacolo di Ulderico Pesce, che è proprio incentrato sull'acqua e sull'arsenico, un tema ahimè molto attuale nel Lazio in questi giorni. E a seguire ci saranno in video collegamenti da Cancun, dove si sta svolgendo il vertice sui cambiamenti climatici, e concluderemo con una serie di video anche un po' a sorpresa, poiché in questi giorni ci sono arrivati video di testimonial conosciuti, famosi, che ci hanno regalato delle brevi testimonianze a favore della nostra battaglia, quindi li trasmetteremo a fine giornata come saluto per tutti coloro che si stanno mobilitando per l'acqua. Bene, quindi l'invito a tutti e a tutte è di recarsi in qualunque ora, da adesso. Da adesso fino alle 6 ci sarà qualcosa. Ci saranno comunque qualche artista che si alternerà sul palco, e poi banchetti informativi e cibo e bevande per fucillarsi. Certo. Senti, sai qualcosa delle altre iniziative qui nel Lazio? Poi sentiremo altre regioni. nel Lazio ci siamo organizzati per convergere tutti a Roma, quindi i comitati provinciali sono venuti qua a Roma e stanno portando qui la loro testimonianza. Ci saranno iniziative in tutto il Lazio nei prossimi giorni, poiché i comitati sono molto attivi, soprattutto a Velletri, dove c'è la battaglia in corso per l'Arsenico, e quindi ci sono iniziative, assemblee pubbliche, proiezioni di documentari. E a breve organizzeremo un tour con il regista del documentario Water Makes Money, che è appunto sulla privatizzazione, sui profitti che i privati fanno sull'acqua. E però a breve ci risentiremo di sicuro per confermare questi appuntamenti. Perfetto, ti ringraziamo. Allora buona manifestazione e anche buona festa, le due cose non sono in contraddizione oggi. Assolutamente. Ciao, grazie. Grazie, ciao.